Laboratorio Experi. Illu. Illu. Chiamali. Egitto. E chi è? Ciao Luca. Cosa vai, la supposta? L'antennino piccolino, la supposta, mi senti? A voglia se ti sento. Quella da 5 centimetri, ce l'ho anche io quella. Funziona bene. Io so che funziona bene. Se no una io anche da 50 centimetri mi è messa nel portatile. Ho capito, tu scusa. E ce n'ho una da 50 centimetri anche. Ho capito. Ma questa va benissimo, ma non si piega. Guarda, mi si sta piegata. Perché mi è caduta la radio in terra, si è piegata. Ce n'ho una che diventa da 10 centimetri, diventa 50 centimetri. Addirittura. Si può allungare. Ah, ci vuoi fare sicuro sei di antennini? Solo che... vederla così, tutta pigiata, l'ho addrizzata più volte. Sembra che la riaddrizzi e poi si ripiega da sola. quella che c'ho io rimane fissa, rimane bella tonda. Fatti fare una supposta a Bruppio. Ma questa va benissimo. A cosa? Lo chef non è entrato, dava un messaggio. Ma sarò già in fase, sarà tagliando di Eiba, una figliura. La campagna doveva andare. Ma cosa ne so tu? Se la gente si fa vedere che magna. Sì, la che ho magna, piazzati. Sì, ho un po' magna assai, no, è peggio di noi. Anzi, peggio di me, con un diabete. È così, è già po' magna. Ma ci ho mangiato che tu, ma ci ho mangiato che d'altro, ma ci ho mangiato che d'altro. Ma ci ho mangiato una buzzinetria. Non ho sentito nessun altro, no? Stavo mettendo l'auricolare, no, tu? Boh, non lo so. Sai che io non sono concentrato, ma come a me. Aspetta che provo a chiamarlo sulla 27. Non rispondi. Mi sai di no. Ah, ci sì. Io volevo fare una prova, tipo, se entrava Marino, per se mi ascoltava. Se sei in alto, forse già ti ascolta. Stamattina l'ho vista, la sua camera della Mondezza, lì a Latte Dolce. Non te lo faccio dire, ma mi sa che interrompo, il portatile interrompo. Ho capito. Quando parlo io, si accende il portatile. Ma ci vuole baracchino, me lo fa. Se c'è un portatile vicino, se c'è un portante si accende. E così fa già a me, adesso lo vedi, si interrompe. C'è stavo parlando altri e si interrompe. Portatile di cosa? Ho capito, con la... Tu sei con il veicolare adesso? Sì. Bisogna vedere se sei mali un po' vicino di frequenza. Ma lo disturba un po'. Tanto si attacca a rugoso, no... Non fa, zi. E dove? Si attacca il portatile, non fa. Avevi detto che c'era mezzo bruciato. Se non esce il radio. No, la uscita di radio già esce delle cose, però se mi metto qua nella camera che sono. Mi ascolti tu, però non mi ascolta altro nessuno. Ma chi non esce bene? Non lo so come esce, No, che è un bar di stanza, un bar di sia tu già raddo. No, prova a chiamarmi a vedere se ti ascolto io. No, lascia pigli. Meglio con chi. Non ti ho copiato perché mi è uscito l'auricolare, cosa hai detto? Ho detto che uso questo solo. Aiuto. Va bene anche questo qua. E ci avvide Gio Mari, Graziano. Un chito quando esce e arrivi e un bel rughi. Un chito arriva nessun lungo. Noi siamo in una pasta al forno con Gio Maria. A Gio Maria non piace la pasta in forno. Quindi Gio Maria sicuramente va a fare la gente in casa. Graziano c'era passeggendi. Chi c'è? Passeggendi al centro, pare che al Vaccada. Siccome si è appena dovuto i rughi, Graziano, vero è guffetta, non parla, non parla. Deve essere nonna Gana, o non c'è in casa? Ho visualizzato il messaggio. Siccome stiamo organizzando il primo giugno, ci viene a sciare. In mare? Oh, a sciare, un weekend per dove spendi. Ehi, no, che non avemmo nevi. Bisogna salire in Alta Italia. E già poi la neve a Usino. Poi finirà. Va via, a Ciappemmo. A domani a ciò Gadinnandi. No, lunedì vado. Se ti fanno sentire. Sì, certo. Oh Giulia. Chissà, boh, forse non lo so. Se ti esce domani a Manzano. Un colpo di lumaconi, quelli piccoli me li ho fatti, quelli. Pochi fatto, belli belli, stanno lì in gabbia, sono pronti. Sì, adesso guardo domani mattina, seconda che ora me ne beso. Caraccia, si fa volentori. Sì, è a posto Eva, a posto Buru. È a posto Eva, sta la chieda mi pare, Buru domani, domani è domenica, è vero. Sì, l'unica cosa è, dipende da che ora me ne beso. Se varo Rugani, se no è Fendeva. E non fai bene. Eh? Giudito, non fai bene andare. Non lo so. Se si offendeva, hai beso. Ma così va una bastigiata. Rugani chiama una volta la bastigiata. Ma se offendeva, tocchino Ghisotto. Ah, beh, certo. Ma che io se non ribiasi mancureva, pensa un po', bu. Sesci, due minuti, bici e se ne dovrà entrare. Come ti detto di cani, non sono solo l'uduglio, no? Hai compreso. Ma con chi tu andava la giura, andava, che da se va via, andava la giura. Oh, li ho abituati sempre a farle vicino all'albero, Si guani va a farla. Ah, così, è proprio la si leva. Ma non se ne bigliavano. vabbè, i cani purtroppo sono tutti uguali. Poi c'è quello che gli piace stare sotto l'acqua. La mia no, è così bisca, quasi in pressa, uno mi dice che la base non marcia a piedi, tanto che più vendi ce la butta giù, non è che capisci, non rimane lì, perché se non sta piovendo la fa tranquilla, non c'è problemi. No, questa te la fa nel cespuglio, te la fa, coso, in mezzo all'erba, io l'ho abituata a farla in mezzo all'erba, non te ne fa, se non c'è erba non te ne fa. Sì, addirittura, non te ne fa. No, l'ho abituato così io, l'ho abituato a farla in mezzo all'erba. Se non c'è erba no, non ne fa, né coso. Se invece se qualche altro cane piscia in un angolo, allora lui tenta di bisciare, però non la fa. No, la mia la fa per tutto. L'ho abituato troppo bene, l'ho abituato. Quando deve fare il suo bisogno, la fa in mezzo all'erba, la fa. Vabbè, l'una la fa la strada, si va già a piedi, no? Capito? È abituata così? No, io l'ho abituata a farla in mezzo all'erba. Se possibile, si nasconde anche lui. Beh, certo. Comunque i cani sono micidiali, no? Dove quando sta piovendo fanno in fretta per ritornare a casa al calduccio. Lui è fatto così, è fatto, ho abituato io a essere così, però quando sta piovendo esce, piscia in pressa, se ne va sotto il cespuglio dove non tocca acqua e se ne rientra subito sotto il portico. Beh, me lo posso immaginare. Fare fondisti. Il curai. Non sono tutti che fanno così. Bisogna abituarli. Ma infatti. No, vabbè, l'una ormai è anziana. Quanti anni ha il tuo? 5 anni fa a giugno. L'una c'ha 11 anni. Ne già una fa arrivato a 15 anni, che cosa? Poi l'ho dovuto sopprimere. Purtroppo, anche loro prima o poi. Moriamo noi, non muore niente. Io l'ho dovuto sopprimere perché no, era tutto pieno di tumori e stava togliendo il sangue dal sedere. La femmina? No, maschio era. Però coso del tumore, ha fatto uscire lo sangue dal sedere, gli ha fatto uscire. E anche lui ne ha tanti tumori. Quindi ogni tanto una radiografia avevo. Fino adesso non c'ha nulla delle cose queste. Sto dopo portando avanti a crocchette. E anche la mia purtroppo ne ha uno gigantesco, grandetto, da quanto un balluccio. Poi ne ha uno nella mammella e uno sotto la zampa. Sotto il petto, dai. Sì, quello dipende anche dalla cosa gli dai a mangiare, hai capito? Cos'è da mangiare? Il mio cane mangia crocchette, mangia pasta, mangia carne, mangia ghisi, mangia ghisasso. No, io gli sto dando solo crocchette e mangia, e il pane, Mangia di ghisi, mangia di ghisso, se ammalano è boh. La scusa non è perché mangia altro, purtroppo si ammalano. Gli dai a mangiare tutto quello che mangiamo noi e cose, che gli fai assaggiare molte cose per quello che gli viene. Ma secondo me no, secondo me è una cosa normale, comunque, vabbè, diciamo che Luna non ha mai saltato, e purtroppo anche per quello che si è ammalata, cioè già è tutta piena, magari facendole la, come si chiama? Svuotamento, vabbè. No, io il veterinario mi ha detto dagli solo crocchette e qualche pezzo di pane, però non dagli altra roba che mangiate voi, e il cane ti vive quanto vuole lui. Può anche essere, ma comunque ne dubito. Così mi ha detto a me il veterinario. Mettergli le medicine che gli devo mettere, fargli il coso suo, il vaccino ogni anno, e lui è a posto. Ma se ne va che non va nulla. Sì, vabbè, cosa pensa? I vaccini va a fargli fare pendidina. No, il vaccino vuole fatto perché vive in casa. Forse è stato che vivesse in campagna, tanto quanto, ma vive in casa. Ma infatti, anche il mio vive in casa, capito? Purtroppo glielo devi fare per forza il vaccino per non prendere malattie, perché loro odorano, tutti gli odori odorano. Ehi, you! Dimmi. Ehi, you! Cuffetta! Facendoci! Buonasera, saluto a tutti! Io Ginorio William, ciao Torre! Salutoni a tutti, chi c'è? Luca? La buffetta. E chi c'è Luca? Solo voi due ci siete. E io. Per carità, Torre. E io, grazie. Non c'è nessun altro. Ma non ti basta. Siamo già in troppo. Andiamo, la giudizio io. Marco Bacchisio c'è. L'uomo di campagna. Sì, avrà entrare subito. Allora dei pipistrelli. Marino no, perché c'è una festa del nipote, mi sembra. Il compleanno e non ci entra. Cosa è una festa? Il compleanno del nipote mi sembra che mi ha detto stamattina. E dunque non lo sapeva se accendeva. Ah, così è. Meglio così. Ma manco mangiamo dozzi. Così mi ha detto stamani, mi ha mandato un messaggio. E beh, io facendo sì. Eia, facendo sono. Va bene, mi ascolti, grazie. Prova. Sì, ho messo la supposta nella radio, mi senti bene? Sì, io appunto, la stai riuscendo bene. Vabbè, sei un tiro di schioppo. E vabbè, giusto per essere rendevo, guarda, sentiamo Marino se mi ascoltava. Marino forse non ci accendeva, domani. Già sta riuscendo bene, già si sente che è più forte come tonalità di radio. Vabbè, sto usando l'auricolare. No, già sta riuscendo bene, confermi Torre. Già c'è, grazie, la tosse c'è. Ho detto confermi a Luca. Ma che agitazione, io vi ho detto, che da me arrivi bene. capito a Luca che anche da Torre arrivi bene. E io bene ti arrivo. Forte chiasso. E uguale sei tu. E oggi niente festicciola, non siete usciti al circolo. Nulla, oggi niente. E la breve freddo buco, cazzo, oggi ho ubriato sacco di belle, se andasse su la stufa lì. Sì, addirittura. Freddo c'è, cazzo, neanche l'altro giorno. Oggi è freddo. Ma io non intendo. E io sì, cazzo, mi ho messo la felpa e la cuffietta a burro, ci sa con un bombone, Tore. Ui, ui, chiata, non vi sono andato a bere i bancarelli? No, ma ne manco barriera, nonno, non saranno. So che ci dà rimane e ci bruci, no? E cosa vi fai in casa? Mi ha guardato un film che l'avevo già visto, è finito adesso. Prima di quello me ne ho guardato un altro, tre film mi ho guardato, dalle 2:30 sino adesso. Sia da te, bebe. E cosa fai? Mi vuoi accendere il computer, ma di te mi guardo la TV a vedere. Stanotte ce n'è uno, bello mi sembra che o è a Rai 3 o a Igisi, non me ne ammento, forse a Igisi. Alle ore 21, capito mia, Luca, e tu cosa stai facendo? E nulla. E Luca Flippa non te esula. Luca? No. E anche lui è entrato, ma ho sentito. No, stamattina l'ho sentito per messaggio però. Stasera non è entrato. E Gian Maria non è entrato, ieri già l'ho sentito a Gian Maria, un po'. Ma chi? A Gianni Maria, neanche lui è entrato. Ma mi è sembrato lui stasera, non sono sicuro. Tore, non l'ha inteso nemmeno tu. No, non l'ho sentito. Allora te diciamo a Bacchisio, attenzione signor Bacchisio. Oi! Da quando ha piantato un prezzo di mare e penne di dinà che leva a Marchisio. No, a rimarassi la vita. Va a vedere a rimarassi la. Chi dato da quando è diventato ricco non si può più fare vedato. E cara chi su? Gianni Maria. Deve darci il vagente in casa stasera. E allora, se mangia il rubolfo ancora. Vitturai. Sì. Ehi, Luca, e oggi cosa hai mangiato? Roba buona. Sì, abbiamo fatto passare frutti di mare con gli asparagi. No, io ho risotto al zafferano oggi. E quel così, polpa di granchio. Che fuori esce una zampetta del granchio. Si fanno fritti. Ho capito. Buoni. Che era buono, me ne sono rimasti tutti, io me l'ho già mangiato. E poi ha cucinato anche le spigole, però non le mangio io. Beh, certo. Ma io non le ho mangiate, non ne mangio spigole. E mi ho mangiato quelli là. Lì la spigola mangia usuri, come l'odore? Ah, boh, non ne so io, non è questo. Non lo so se se ne mangia Edo, boh. Confermo, anche un amico mio che va a pescare, l'ha pescato bello grassottello, alta la banca, lì la prende, va a pulire le denti, va via i sarroni, non l'ha più mangiato. Ma cosa? Un amico mio andava a pescare, ha preso delle spigole e ce n'era una bella grassottella. Quando arrivi da casa sua, si può sta pulirla, no, fa ammazzarla. Quando la mette a vicino 30 vedi un cucciolino di longo longo, freco freco. Che una volta non ha più mangiato il manco più pigliato, no. Ma io tutte le volte che l'ha pigliata la spigola, non ho mai nuda a Trento. Ma poi ha sempre più duira. E spigole che ha giubilato. Ma lui le prendeva lì. E adesso non mi ricordo, c'era la sfoccia, dove sfocciava una fogna. E gli era pieno di pesce, doveva pigliare da lì. Ma no, è sempre chi pigliava giù qualcosa, no? Gli andavo io a pigliare le prese, vuoi dire che è andato vicino a Rubuccio a pigliarlo? La pigliata. Dottore, mi ammetto che andando a Rubuccio, adesso mi veniva che la ciabolavo, lo tiravo e prendevi, però poi ce li ributtavo io. Adesso mi veniva cammini, li levano. Ma sono cose, vabbè, vicino a Rubuccio, sì. Ah, dove andavo io era tutto pulito sempre, ma le volte che prendevo le spigole era sempre pulito il rugo. Vabbè! Che è fino? Ma la spigola lo mangia proprio il topo, che schifo. Beh. Luca, tu a te la mangi la spigola. E Lu? Io non mangio l'orata. E Lu? E le orate sono buone. Sì, ma la grippina su quei cagoni. E fremone! Anche io non ne mangio per quel motivo anche. Poi mi dà fastidio di mangiare piano piano, sta attento alla grippina, ui. No, è per me un pesce. È per Luca Flippero. Ehi, è un pesce terra. Ehi, quello è un pesce, è un altro pesce, non è pinnato, diciamo, è coglionato. Che maleducato, dice, si dice aggrongato. E vabbè, con i contrapesci, Torre, mia Luca. Vai a dirlo. Luca Flippero, mia Torre. Ehi, bella babbo. Famore! Attento, Luca, supposta! Sì, andava la supposta! Poi va via anche questa supposta! Ma cosa? Non danizzai! Pensa che l'ultima volta gli ho dovuto attaccare un filo per toglierla! Un filo interdentale! Se no non ne usciva! Perché tutte le volte andava pronto soccorso! Ma non ne ho visto! Di più! Avanti ciò. Luca, un po' che ha fatto Rai? No, sta piovendo. Ho mandato la foto a Torre a Graziano di quell'antenna, Lu. Ma poi pensi di cui te la rossi, Lu? Hamburger arrosto. E che antenna è? Basta guardartela nel telefono. Perché adesso l'hai mandata? Guarda, quando hai iniziato a parlare con Luca te l'ho mandata. Che antenna è, Lu? Quella che ho dato a te. Ah, questa che mi hai mandato, quella la vendono. Ah, vero? Meno male che non la rubano. L'ho vista anche su Wish, 1 euro. Lu, secondo me l'hai costruita tu quella? Quella l'avevo presa in Cina. E poi costa 1 euro, 1,50 euro. Luca, ma questa ce l'ho anche io, ce l'ho. E un euro l'ho vista su Switch da poco. C'è anche quella per il PMR, per la macchina. E c'ha un cerchietto a metà antenna. E a me non c'è questa antenna grossa, grande, va bene, sta qua. Ce n'è anche una per la macchina su Switch. Mi pare che costa 19 euro quella, però. Della macchina non me ne posso usare io. Vabbè, avanti a bacia brunissa. No, io me l'avevo ordinata una a base magnetica. Però poi ha detto, ma cosa me ne posso usare? E allora l'ho annullato l'ordine. Costa anche poco. Ho capito. Ma per la macchina, io a me non mi serve. C'avevo io, c'avevo anche la carica trasparente, ci vedeva tutta la carica. quella era bella, ma addirittura di buttata una cosa, ma non male. L'ho solo provata qua, appoggiata sulla ringhiera. Però poi ha detto, io non me ne posso muta. E l'ho venduta, nuova nuova, l'ho venduta quanto l'ho pagata io. Mi pare l'avevo pagata sulle 30 euro, una cosa del genere. Vabbè. Ehi, l'ho comprata, l'ho provata, ce l'ho rimessa nella busta. Mi è capitata l'occasione e me l'ha già venduta. Ha detto, intanto non me ne posso muta. Ma cioè, dovrei avere una boomer e anche un'altra antenna con tre radiali, non mi ammetto niente. Un inciso, boh, o sono in garage. Luca. Ho capito. Ehi, ma tanto per la macchina, a me non mi esiste. Luca. Tu dimmi. Beh, pensa che quella lì quando era arrivata l'avevo provata a casa di mia suocera. Dalla parte dei giardini, penso, mi sentiva Marino, dal secondo piano, da casa di mia suocera, mi sentiva Marino. Sì, a funzionare già funziona bene, anche se piccola. Già funziona di vecchia. Ma dico, queste antenne lunghe, flessibili, ma meglio queste qua. Tranquillo, qui se non si picchia. Andando mari mari, mi fa entrare si fascia. Oh, la mia, questa che ho qua, è flessibile, è 20 cm, ma va benissimo, non me la dà fastidio, pure se ci bigiano le basi usa. E anche con la flessibile, ma si è fatta tutta storta. No, questa se la piego, poi la mollo si raddrizza, già va bene, invece nell'altro ce l'ho più corta. Quella e funziona benissimo. Sì. Ehi, andà di vero, ma anche quella. Quella che ti ha trucca, quella che sta usando, funziona bene, a buio. Ah, cosa la biglia fa? Ma rimani a rimuglia, oh vi. Ma lui. Quella fa anche 1200. Fa. Sia. 1200, eh? E lui? Vale, per quello che costano in Cina, qui le paghi mi sembra 15 euro. Un euro l'avevo pagata io. Ma non qua però, qua non ce n'è un euro. No, oh, mi è arrivata da fuori. Sì, io l'avevo comprata tramite Wish dalla Cina. Qua c'è della Diamond, mi pare. Costa così. No, io me ne avevo preso, mi c'erano una da 50 centimetri, che avevo pagata 2 euro quella lì, lo stesso venuta da fuori. Poi c'erano un'altra che si allunga da 10 diventa 50, che si allunga, quella lo stesso 2 euro l'avevo pagata, tutta roba arrivata da fuori. Se non la vuoi comparare no, che no, che te c'ha bezzetta, di po'. Ok, ma mi sa che per farti arrivare la cosa da fuori devi pagare la dogana. No, entro una certa spesa si paga la dogana, capito? Mi hanno mandato il messaggio che adesso per ordinare qualcosa devi dare il coso, sono 5 euro di, dalle 5 alle 8 euro in più. Deve stare entro un certo limite, io ho comprato anche da poco, no? Allora, ho comprato anche da poco della pellicola per cubicatura, ok? Costava 40 euro e questo è il venditore, però ha dichiarato 20, capito? Se no mi costava altri 20 di dogana. Ehi, aspetta, è una cosa proprio... boh. Solo che io ti volevo far fare una cosa dentro in macchina, che si è manciato una cosa e lo volevo far coprire, solo che non esci, non si può togliere. Io. E che cosa? Ma dove? Nel cruscotto? Dove? No, è giù nella... dove c'è la leva del cambio. E non me ne esce quello lì, senza toccarlo. E compreso, è tutto dentro, quando sono andato a dimontare l'affare della leva del cambio, il pomello, e non esce. Deve essere l'hanno incullato. Sì, quello è incullato. Ti Pippo Postic. Catta, sono andato a toglierlo e non esce quello lì. No, te l'avevi lasciato il pezzo dove c'è la cosa in pelle. Quel pezzo lì mi si è macchiato di una cosa che c'avevo del deodorante e me la mancia, me l'ha asciutto. Perché diranno, sì, ho capito cosa stai dicendo tu. Luello, riprendi, grazie. Io da whisky, già che si tendi da whisky, come ci si chiama, sto aspettando 4 pacchetti, mi sono più di un mese e mezzo. Arrivi. Chissà se arrivi nei Burundi, tanto mesi scorsi non mi sono arrivati i pacchetti. Allora devi avvisarli prima che scadano i 30 giorni, col telefono. Li ho già avvisati io, mi hanno detto di aspettare un altro mese, i primi di giugno non arrivano, di mandargli il messaggio che non è arrivato. E poi loro o ti tornano i soldi o cosa, ma sono le poste mica li fanno sparire, alle poste spariscono. Un pacchettino e gli avvisati, però c'erano già passati 30 giorni e pazienza, la giubbezza. Vabbè che era un pacchettino omaggio, mi capito, pagavi solo il trasporto, la spedizione diciamo, era una cazzata, non me ne ha fottito. Però quello lì, sarà lì dentro un postino, che quando è roba piccola così la porta al postino. Se sono andato alle poste io e non c'è nulla, non sta arrivando. La roba è a Roma che sparisce, alle poste centrali di Roma che sparisce. Smistamento, quando fanno lo smistamento, già lo so. Ma dite la prossima volta di avvisarli prima che ci spassino i 30 giorni. A me l'altra volta io avevo detto sul coso, li ho avvisati e come mi hanno rimborsato i soldi, mi hanno rimborsato. Ma visto che dobbiamo rimborsarmi, mi varia 6 euro da rimborsarmi in tutto, in 2 bacchi. Uno oggi, il 18, poi ne devo ricevere uno lunedì, e poi un altro giovedì prossimo, insomma 9 articoli entro in questo mese devo ricevere, se no è arrivata una cattura unica, boh. Allora io ho fatto un'altra cosa, con le poste italiane gli ho detto di non spedirne più alle poste italiane, che non arrivano. Ha detto di farli mandare direttamente con un corriere e poi gli pagavo il trasporto, quello 2, 3 euro, 4 euro che erano, e mi ha detto che non rubo ne fa. No, io manco chiesto ne vedo, lei penso che non ne va bene così. Se magari roba più grossa sì, me lo porta al corriere, Bartolini, in genere. Da Swissi me la porta Bartolini, o se no anche quell'altro, la TNT me li porta. Se che è andato pure, ci va vedato pure il direttore ha telefonato a Roma e dice che erano i fermi, tutti a Roma i bacchetti. Allora li hanno mandati in fretta, li hanno mandati perché sennò sparivano. Di stare attenti che sono a Roma, quando si fermano a Roma, che sono da Roma che portano via tutto. Pure dai noghi, non ti preoccupare, ma già le vado a fare pure dai noghi. Un bel di voce di Roma, non è solo a Roma, alle poste gli avvenire un poco di rompi. Io ci ho lavorato mia alle poste a trasportare posta, banconi, un sacco di cose. E dunque gli ha reso curioso. Sì, è tutto un casino, Infatti io faccio 4 bacchetti, sono quasi tenni. Allora secondo me cosa arrivini? Tore! Ehi, a cosa che vuoi? Luca semmai chiama. Luca, Flippero, ACC. Sì, purtroppo molti non arrivano, ma grazie a Dio rimborsano, così che purtroppo non è neanche colpa nostra, anzi se hai un mese di tende e non ti arrivi, da voi è un casino sempre. Io faccio un coso che ho richiesto tramite Amazon, non riesco a passare la dogana, penso un poco, e devo pagare io la dogana, devo pagare, tanto non basta che sono stato pagato, e non riesco a passare nella dogana, sono 11,99 euro che ho speso tramite Amazon. Nulla da fare, no, non riescono a spedirlo. Casino, se si ferma la dogana, secondo l'articolo, non ti passano. Ma no, io su Amazon non poco e niente conto. Su AliExpress sì, su Wish. Infatti ha scritto di rimborsarmi i soldi allora e lasciare perdere. Che mi rimborsino i soldi direttamente. Basta, ha scritto. Se il lunedì non mi arrivi, bisogna mandargli un messaggio. E mi domando un di... Mi sapete che non mi arrivi, e c'è un video già mi dici. Cazzo, se Wishi ti dici di aspettare un po', ti dici. Di aspettare almeno 15 giorni. E da poi se passano i 30 anni, hai messo, dici che non vi vuole fare nulla, niente, l'hanno mandato mai del consegnato. Così mi viene fatto un'altra volta, ma una cosa. Mi ha giurito e mi ha mandato un'altra cosa, che non me ne fottia nulla. Infatti, se l'ha giurato, a me da vedere. Ma... No, a me, grazie. L'unica cosa che mi hanno fatto, dopo 15 giorni, mi hanno rimborsato i soldi. E me l'hanno rimborsati. Ci passano 3 giorni a rimborsarti i soldi, però te l'hanno rimborsati. Ma quando sono a casa a stelle così, ma non me la fotti in mano. Però, mi pare che su cose da 3 euro, una cazzata del genere. Cosa, ma sono piccolette, cose piccole, però se non è che mi si fia a chi la giubilata chi l'ha detto, mi piace, ma dico, se mi dai di là da poi da tenere la roba di grazia, da consegnarla, non ha giù preso, non andava, ciamba di ditta, ciamba di corriere, chi su che ti piace, A me, con tutto quello che avevo ordinato, grazie a me, mi ha detto, 2 banchetti solo non mi sono arrivati, però me li hanno rimborsati i soldi di quello. Allora faccio 4 banchetti, però non c'è più nulla. A me per lo più mi sono sempre arrivati, anche le cassatelle, quelle da 1 euro, 2 euro, già mi sono sempre arrivati, anche con per il postino me l'ha portato. Anche ho preso le batterie, 2 batterie di quelle speciali, perché qua non ne avevo, non ne ho 3 babbo. Allora me le ho prese tramite internet. E già mi sono arrivati. E funziona di me. Grazie. Allora, vediamo, se arrivi è buono. Se non arrivi mi mandano un messaggio. Fra 15 giorni gli mando il messaggio. Li mando. Fino a arrivati. Se tu l'unici non mi arriva, perché postino non ho visto né ieri né oggi, è qua. Ma te ne so che se prendi 4 durne, Fenni. Cazzo, dico che passa in occhi, fasi 4 durne, vasi. Pensa un poco, se non ci sono postini, non sono assumenti. È uno schifo. E già me li sono capizzato, boh. Tu vedi che non vengo un postino, no? Prima quando vedo che suo signore con la moto, visto un capo spirito, lo vedeva tornare, pure pensava stare in treno, lo vedeva così nel buco. Ah va, boh! Io sono salito su a cosa sono salito? Luca riprendi! Eia, grazie, mangiare stanotte, grazie, cosa mangi di buono? Oh, non è voglia, è rimasta cosa di mezz'ora a voglia mangiare la cana, ma no, non è voglia, non mi sa che mi posso un tè stanotte, due fette biscottate con la marmellata, le ciliegie, il burro e trubarettato. Cosa ti fa stanotte a me? Sei vreco tu. Il tè, ho detto, il tè teati, o tè sarvi, anche tutti e due, o se no c'è anche quello inglese, che non mi ricordo come si legge, quello, o c'ho il tè verde, mi posso un tè, due fette biscottate, e gli spalmo la marmellata e il burro. Tutto, io dico così, mi porto a te, vedo do. Ah, non lo so io. Vedi la cosa, Graziano, boh? A Luca Flippero bisogna dirlo, Luca Flippero! Ma, lo vuoi così accendendi, Luca! A me? Dico Flippero, il fuoco sta accendendo. Sì, infatti c'è le polpette arrosto. Oh! A chi sali a Turino, a chi fai no, che ve ne so 4 o 5. Oggi la farà dura, è piena del pesce che si è rimasto. A chi mai a fuoco di cantina mangia in elettro, a chi su? E la Billagna, anda a cacciare di fighetti, ma rimane non ha avuto. Oggi non ha avuto dirighetti, non per usare noi c'è la dirighetta. E se la fare no fumo, è da più chi. Chi c'è pina di rubescio con rubescio? Se la fuella azzurra! E te credo! Poverina, poca la negata, chi l'abbia fatto lì a Turino? So io sono in garage, in mezzo a una manta. Ma non so che ne ha fatto, due o tre. Beh, la dotta, le no? Quando si sta vicini, la femmina si è avvicinata e ti buffa, nel cazzo non si vede in terra. Ti va di... In difesa. Una sola vinnecchi quando ti vedi, vieni, miau, miau, miau, chi te la vuoi affigliarla? Che la figlia del mamma è figliola di una brava brava, e ce la puoi essere la manta. Ecco la rete, minoriti sono. Sì, saranno gli 8 centimetri, io già, ma speriamo che non l'ammazzi a nessuno, già si ammazzati. Che già si difendono oppure scappano. E lo sai che da quando mi sono vicchiati, no? So che non bisogna vedere i surighi. Prima c'erano i surighi che vigliano da un terrazzo. Immagino. E chi mi dobbiamo stare di un grattacielo, tu gli azzarroni cantano chi c'hai. E ne scene da sotto un gradino del marciapiede di quella specie di circuito che c'è di lì, a Ocialacura. Sotto una parte di la piazzetta dove parcheggia le macchine, c'è un punto che le farà dalla breda là sotto il marciapiede e scini dai libri di San Roma. Io ne ho visto uno al monte, era gigantesco, mamma mia, mio marito, mi accosa. Ah, io quando mi è capitato a vederli la Giuseppe fatti secchi, che schifo, gli animali feuga. Luca, in quel programma in Alaska, i topi morsiati, li pigliano e si rimagnano, con gli azzarroni, non l'hai visto? Eia. Oh, non lo so, te l'ho mandato un video, questo tipo gurubizzico, ne vuoi dal water, un serpente, te l'ho mandato il video. Sì, che me l'hai mandato. Vai, dottore, chi ti dà un gabinetto, una pigliata, con un bici, una vipera, un serpente. Sì, se lo mangiano, non va a tenere russo. Vabbè, se la posso dentro un bidone e la posso usare. Ma dico, a me mi dirava mi tocca bendare un gommo su tutti i voci che entro. A chi me l'hai fatto vedere? Vabbè, dai, no, che non va arrivare né manco, non avemmo noi dei serpenti. Ragazzi, l'ha detto, si veda nei bagni, lì, via Lumberto, lì su in alto, più su dove c'era la finanza. E se non puoi sta passeggiare in tutta la dubbatura, di ricomodi del barazzo. Ah, boh, non ne so più. So giuro che nelle vognerose non vi bastano, a che morire. Ma da noi bastano là sul tipo di Zurichi. Luca, diglielo. E allora? Passano Zurichi pure Gesù, Tore. E allora sei Gesù. Te ne magna, non viro te ne magna. I culadri che vi giotti dici da dentro al gabinetto. Sta tranquillo che dal gabinetto mio noi esci, a che morire subito. Rugoso che ampemmo. E se noi non che bavetta. Io che a me mi ammazza con la parecchina. Una di ha fatto una bomba quando mi aveva abbassato a bagno. La città che su fumo che vengo, non so pure la pazza. Capita, mi ha arruinato la pazza. Sta posto l'acido moriatico e non so cosa. Una bomba era venne, Luca. Sì, me lo posso immaginare. E ha fuso la ceramica della vasca da bagno. La giusta, la città tu sei tutta macca. Io ho visto il fumo, e che tu fumo da un incendio. Era in terrazzo, dalla finestra del bagno vedevo questo fumo. E lei da, era con i peli dritti, ma con me non va via i guanti, non vi dai sciurti. Lo dico a lucidà. Oh. Abbatti, boh. Beh, adesso chiudo ragazzi, che mi devo fare l'insulina. Ciao, Tore. Ciao Bobo, ciao Luca Frippero se se l'ascolto, accendendo il fuoco. Ciao Luca, manicomi, a domani, riprendi tu. Ciao, grazie, saluti. Sono da Paoletta, buona cena, ciao. Ciao. Ciao, grazie, stammi bene. Ok. Luca, cosa devi fare? Ciao Luca, ci sentiamo, ciao. Buonasera a Giomari. Buonasera anche a Graziano e a Luca, va. E adesso sono arrivato. Dai, buon procedimento, ci sentiamo domani, ciao. Ok, ciao Giomari, riprendi Luca. Ciao Giomari, buonasera, dai, alla prossima. Perché sei così tratti? Stasera ci sentivo bene, perfetto. Adesso ci scariche. Ma chi io? Eccomi qua. Buonasera a tutti, belli e brutti. Giovanni, non mi senti? Pronto, pronto. Ecco, adesso sei tu, Luca. Sto sono un antenino piccolino, dai. Più bene qui stasera, capito? Buon procedimento, saluta Bacchiglio, vai. Torri, prendi tu. Ok, aspetta, mi ha schiacciato Bacchiglio. Ok, buonasera signor Bacchi. Buonasera a tutti. Piccolo sono stasera, sono giù. Oh, dove sei? In garage? No, a casa, però con l'antenino piccolo. Ah, io da costume, dai che non lo gioco. Luca, lo ascolti a Bacchiglio. Positivo, Bacchiglio, mi ascolti? Sei sicuro Luca, buonasera, forte e chiaro. Meglio così, dai, sto facendo un antenino piccolissimo, quanto la supposta. Addirittura, così piccolino sono. No, l'antenino lo sto usando io adesso, quanto la supposta. Ah, l'antenino tuo, io ho capito, quello 18? Positivo. Iaia, sto usando il piccolo antenino. E Graziano se n'è andato, Gio Maria se n'è andato, non c'è nessuno. E Marino? Marino non c'è. Non si è sentito, no? No, Marino deve essere alla festa del nipote, del compleanno. Così aveva detto Graziano. Ah, ecco, ecco, in festa, in abbiosia, Beh, signor Bacchi, allora? Lo sta suonando, vuol dire che è ora di merendero. Ciao Luca, salutissimi, sono entrato solo per salutarvi perché vi ho sentito. Ciao Tone, buona serata, saluti in casa a tutti e due, a domani se coincide ci sentiamo ancora. E Bacchi ci passa in QRT, ciao a tutti e due, e anche agli amici che sono in ascolto, senz'altro. Avanti Tone. Sì, ok, ciao Bacchi, ci sentiamo domani, se tutto andrà bene, se no fa zeba. Luca, ci sentiamo domani, ci sentiamo, sto chiudendo anch'io. Ok, ciao. Ciao Luca, ciao, a domani.